State ascoltando Easy Rider. Caratteristico e che caratterizza anche in questo caso una scelta di Serena. Anzi, a proposito, guarda che prima arrivava un SMS che parlava di te, faceva una domanda su di te. Io mi permetto di rispondere senza leggerlo. E l'amico era un taxista, Roby Taxi, che mi fa una domanda riguardante te e la risposta è assolutamente sì. Questo sono io che rispondo e mi assumo totalmente la responsabilità. Detto questo, proseguiamo con la musica. Sera, abbiamo scelto, finalmente abbiamo fatto una svolta nella tua vita, più che altro. Cioè, nel senso che siamo andati indietro per la prima volta. Un'inversione a U, diciamo. Un'inversione a U abbiamo fatto, esatto. Sì, Kings X. Kings X sono un gruppo hard rock, non AOR volevo dire comunque. E niente, un super trio, hanno fatto 30 album dal 1980 in avanti. Ti risulta, Phil? Siamo più bassi? Sì, 88 il primo. 88. E quindi fino adesso hanno fatto appunto 15 album. Io ho scelto per voi. 15, non 30, infatti hai detto 30 no, album. No, scusa. No, ho sbagliato. No, vabbè. No, ascolta, 30 album mi sembra impossibile, un eccesso, allora sarà 15. Un eccesso di produzione con una qualità così alta, oggettivamente. Okay. Però insomma, è uno dei pezzi che più ti emoziona. Sì, questo pezzo è fantastico, perché voi non credete sia stato. Io lo conoscevo. Sì, questo pezzo. A me spiace molto poi non averli mai visti dal vivo, perché non sono. Correggetemi se sbaglio, non sono mai venuti a suonare in Italia. No, credo. No, io non li ho mai visti. Purtroppo. C'è qualche YouTube che documenta, ovviamente. Beh, adesso lo strumento strumento più alla portata. Io devo dire invece che appunto conoscendo Serena, anch'io ho conosciuto sto pezzo e ho programmato questa canzone però in una versione dal vivo degli anni 2000 proprio per tributare insomma la giusta onoreficenza a un brano così semplice, melodico, che secondo me può emozionare proprio in virtù della sua semplicità, vero? Esatto, sì. Comunque questo era il secondo album, come mi ha riferito Phil, ed si intitolava Gretchen Goes to Nebraska, il secondo, cioè proprio il lavoro, sì. E Summerland era la canzone. Ecco, i King's X sono particolari perché sono un po' un crossover, nel senso un incrocio di stili, no? C'è del prog, c'è del della melodia, della OR. Sono molto vari. C'è un po' di sonorità un po' innovativa, visto che appunto agiscono già alla fine degli anni Ottanta, per esatto. Cui cominciano anche a prendere, si affondano da un lato le radici, dall'altro ne prendono anche le distanze, per cui il linguaggio dei King's X piace proprio in quanto per certi aspetti innovativo, no? Sì, sì. Io credo che siano anche molto conosciuti comunque da tutti. Sì, erano su Major, erano su Atlantic. Su Atlantic, quindi voglio dire, hanno avuto un riscontro italiano anche. Sì. Va bene, saluti, continuiamo con i saluti. Nel frattempo guai trascurare il nostro meraviglioso e commovente pubblico. Il numero è sempre 335-100-7777. Matt da Forlì dice un saluto a tutti e tre, grandi biglietto, emozionanti. Questi fogli, vai piano per favore. Splendida la scelta, no, questo è l'amico Anton. Io voglio invece prendere in mano le mail al volo e ho una mail che vorrei leggervi, anche se non vuole risultare autocelebrativa. L'oggetto è dolore immenso e l'amico Davide dice: ogni volta che avvicino l'orecchio alla radio l'emozione mi pervade, sento che metti sul piatto quello che io vorrei sentire nell'animo. Tu sei cultura rock, emozione, grazie. Che peccato che, vabbè, che tu non ci sia più alle 12, vabbè, in realtà ci sono ancora, ho solo spostato l'orario, e poi alle 12 c'è insomma la collega Claudia che per quanto si esprima in con un linguaggio a volte differente, però insomma è sempre un piacere dell'ascolto. Era il nutrimento dell'anima con le emozioni che ci regalavi. Dove tieni i podcast? Ecco, ho letto tutta questa intro per risponderti che non c'è niente da fare, non ci sono i podcast di Easy Rider. C'è Mauro, l'amico di Forlì, che però ha tutti i CD. Esatto. Ha registrato tutte le puntate. Quasi quasi io, se Mauro mi autorizza, io do il suo numero di SMS in diretta e poi si becca tutte le telefonate degli amici all'ascolto. E le venderà. E infatti mi chiedi dove posso trovare le tue trasmissioni, rispondimi qua, veramente mi viene in mente questa cosa di Mauro. No, oggettivamente per ora stiamo solo incrociando le dita, auspicando in un futuro plausibile. Ho perso il filo, a chi tocca? Serena è appena andata con i King's X, io cederei ancora, se sei d'accordo, Serena, sì, la parola, certo, a Phil. Sì, e rimaniamo in America. Anni 90. Siamo nella quarta decade affrontata, sì, gli anni 90. Restiamo in America. È uguale anche la prima lettera del nome del gruppo. Dai King's X di Serena passiamo ai Caius. Scritto K-Y-U-S-S. Sono noti i Caius a Rock FM, ricordiamo i Queen of the Stone Age, ovviamente. Era il gruppo pre-Queens of the Stone Age. Che abbiamo visto dal vivo con i Soundgarden a Reggio Emilia, i Caius ovviamente. Esatto. Il brano che ho scelto è dal loro secondo disco, ma diciamo quello più famoso, più importante, più bello, che è Blues for the Red Sun. Esatto. Targato 1992. Ed è un viaggio sonoro. Mox, io non so se è avanti nel tempo o indietro nel tempo, perché il titolo è profetico, dice 50 million year trip, downside up, un viaggio di 50 milioni di anni. Downside up non so come tradurlo in realtà. Beh, a rovescio sostanzialmente. Ecco. Allora io direi che non c'è cosa migliore che ascoltare, esatto, per dare una collocazione quantomeno sonora a quello che potrebbe essere l'idea del gruppo, sì, cioè se il viaggio è con la macchina del tempo è verso il futuro o verso il passato. Se il suono risulterà preistorico, allora è sicuramente verso il passato. Diciamo se il suono risulterà futuribile o non lo so. Ma, e poi può darsi che anche nel futuro torneremo indietro, sai, Mox. Anche questa è una teoria. L'imbarbarimento di questi tempi. Esatto. Non sto tranquillo io. Ieri, guarda, mi è venuta una lacrima quando un ascoltatore mi ha scritto un SMS con una frase che avrei voluto dire io e che ha pronunciato Giorgio Gaber nella canzone che sono riuscito a passare. La frase era: ringraziate la dilagante imbecillità. Io sarei rientrato in onda rimenzionando questa frase e questo ascoltatore, prima che io rientrassi in onda, me l'ha scritta. Quindi questo è un esempio di come la sintonia che si crea suggella veramente questa magia che solo solo le grandi arti come la musica riescono a farci condividere. Va bene, allora ascoltiamo i Caius, Phil. Facciamo partire la navicella spaziale. Vai. We'll be right back. insomma, un bel trip, è il caso di dire. Viaggio. Secondo me atemporale, come la grande musica esige. Questa ti piace come. Ecco, questa è la risposta di Mo. E anche questo per farvi capire la sintonia che c'è all'interno di questa, l'armonia che regna all'interno di questa trasmissione, approvato all'unanimità, ovviamente. Se c'è qualcosa dei pezzi che ha messo Phil fino adesso che non ti ha garbato? Non so, il primo pezzo magari troppo antico, un po', no? No, mi sono piaciuti tutti, non è proprio il mio genere, però mi sono piaciuti soprattutto questo pezzo di Caius. Che subito ho detto a Phil di registrarmi, che voglio immediatamente. Però perdonami, potresti pagarla questa frase, non è il mio genere, perché se uno ti fa la domanda qual è il tuo genere scatta l'imbarazzo, perché no, vabbè, la caratteristica genere, un po' di queste persone è che non c'è un genere. Sì, senza quello è genere, vero, diciamo. Però prevalentemente, diciamo, io ascolto AOR, emocore, post grunge. Sì, però dopo so che c'è un brano in programmazione verso la chiusura che dimostrerà che New Age, l'ampiezza, cioè, l'ampiezza dei nostri gusti, dei tuoi gusti, insomma, di ognuno di noi preso come individuo è assolutamente degna di un programma come questo. Allora, avendo scelto i Caius, Filippo, cosa ne pensi dei Fu Manchu rispetto ai Queen of the Stone Age? Domanda per te. Ne penso bene fino alla fine degli anni 90, perché poi hanno fatto dei dischi che si sono ripetuti all'infinito e non mi hanno più convinto, però Queens of the Stone Age avevano una marcia in più, almeno fino a Song for the Deaf. R e Song for the Deaf sono due dischi che rimarranno nella storia. Fu Manchu In Search Of è un ottimo disco, poi altre cose, diciamo, un po' ripetono, si auto riciclano i vari dischi. Questo è quanto. Va bene, io intanto sto sorridendo leggendo per appunto... me, scusa, okay, no, no, giusto, io voglio confermare che se Filippo è qua e al mio fianco è perché è un esperto, cioè non mi permetterei mai di scegliere come cavallo da corsa un pezzo non da 100, che dico da 90, da 100, per cui il parere di Filippo è sacro, esattamente come quello della sera. Allora, abbasso i ronzini. un amico genovese dice: ho perso il biglietto e si è sintonizzato tardi. Cosa hai messo? Il Nevare, ti sento, vado e metto il disco. No, allora, non andare a mettere il disco che lo conosce a memoria, ho messo la più banale di tutti, ossia il singolo Confessione. Poi saluti, insomma, Fregenhaus è contento di sentire Caius e poi fa una scommessa sulla Serena che vi risparmio per ora. Poi il Tanca dice: le grandi arti riescono a capire, le grandi radio riescono a evidenziare. Oggi ho riascoltato Giorgio, ovviamente. Giorgio, io quando do questi input poi risveglio in voi delle, si parla di Gaber, risveglio in voi delle reminiscenze che alle volte si tende non a nascondere, certo che no, ma a dimenticare. Un appello, Minty da Forlì dice: ma perché questa pioggia di ascoltatori da Forlì e poi nel forum ci troviamo in due sole da Forlì, cioè forlivesi, con cittadini, fatevi vedere su Rock Family. Allora, cara Minty, mi dai l'occasione di richiamare la vostra attenzione su il sito rockfamily.it, non l'avevo ancora fatto stasera, distratto dai miei collaboratori, e quindi sappiate che all'interno di rockfamily.it, che è il sito di rappresentanza di questo gruppo di lavoro che ha fatto la radio negli ultimi anni, parliamo di Rock FM ovviamente, c'è anche la possibilità di incontrarsi, cioè di dire il proprio parere, perché ci sono dei blog relativi a molti di noi. Io non ce l'ho perché io sono vintage, quindi non ho i blog. Sei analogico. Marco Sarca dice: Caius, ti cambiano la vita. Eating Dust con Brent alle pelli è strepitosa. Questo è un altro commento sulla band scelta dall'amico Phil per rappresentare la decade 90. Va bene. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo un pezzo che teoricamente ho scelto io, però non mi ricordo neanche che pezzo ho scelto, perché nel frattempo mi perdo nel mare delle vostre belle parole, e allora quasi quasi direi a Ivan di lanciare il pezzo e dopo, in realtà me lo ricordo bene, è un pezzo È un pezzo che piace molto anche qui ai presenti, oltre che a voi là fuori, un pezzo col quale vi ho abituato bene. 1969, anno di grazia, album d'esordio per i Quintessence, quindi andiamo nella Londra più profonda con questa comune hippie e dedita a un cammino spirituale che riesce a trasferire in musica. Notting Hill Gate è il classico, il 45 giri estratto da In a Blissful Company dei Quintessence. Nothing Hill Gate, momento di apertura delle porte, i cancelli della percezione, come si usava alla fine degli anni 60 in quel di Londra, un momento di alta psichedelia e anche di grande pop, devo dire, uno dei miei dischi preferiti, Quintessence, magia vera. Magia. Allora, purtroppo il tempo vola e con voi vola ancora di più. L'ultimo pezzo spetterà a Serena, prima però consentitemi di salutare gli ultimi amici che scrivono. Chi scrive a mox@radiorockfm.com, come Roby da Caravaggio, che dice, dicendo come oggetto vintage, dice Moxe valvolare. Confermo. Grande. Poi Andrea mi chiede: ma tu parteciperai mai al forum di Rock Family? Guarda che quando la radio sarà chiusa sarà l'unico modo per sentirti ancora. Che tu fossi analogico l'avevamo capito, lo so, io sono analogico e non so se parteciperò ai forum, non lo so, ma per un problema di competenza e anche di tempo, ovviamente. Mi piace di più parlare con le persone a tu per tu che non tramite l'arido uso di una tastiera, che però è uno strumento fondamentale perché a distanza ci si trova. Non fatemi dire banalità. Allora, chi altro c'è da menzionare? L'abbraccio a Veronica, ovviamente, puntualissima, dice: per via di una lunga conversazione mi sono persa un po' di trasmissione, una conversazione col maestro, ed è bello tornare coi Quintessence, giustamente. Poi da Napoli scrive anche loro un live uscito per un improbabile etichetta giapponese, fantastico. Adesso minimo mi aspetto un pezzo dei Faust. Non adesso, te lo aspetti settimana prossima, te lo prometto. L'ultimo pezzo è il pezzo della buonanotte e potevamo farlo scegliere solo a una donna per la sua grande sensibilità. E quindi Sere, qua esatto. esce il tuo animo più gentile, più dolce, più soave. Io allora vi auguro la buonanotte con questo pezzo di David Arkenson, che è un polistrumentista americano, e la canzone si intitola Midsummer Moon. Arkenson con una giusta, corretta ballata notturna che bene si sposa con l'orario. Per dirvi la buonanotte qui da Easy Rider, è stata per me una puntata emozionante più del solito, visto che l'ho finalmente realizzata insieme alle persone che più mi hanno aiutato dal punto di vista, cioè aiutato nel senso piacevole. Infatti, se avete notato, la sigla di oggi è stata With a Little Help from My Friends dei Beatles, scelta non a caso, proprio perché questa sera Mox era circondato dai suoi amici, collaboratori, fedeli, con i quali, fedelissimi, con cui condivide molti momenti della sua vita. Allora, il mio ringraziamento a tutti voi, il mio ringraziamento a Ivan, il mio ringraziamento a Filippo, al quale tocca salutare. Grazie a te. Io, se sei d'accordo, Mox, volevo lasciare il mio indirizzo di MySpace. Certo, è casa tua questa. Punto, non è vero, punto myspace.com/Rostoned, tutto attaccato, che è il nome di battaglia, che è il richiamo ovviamente allo stoner rock del quale ti cibi quotidianamente. Quindi ricordatevi MySpace, quindi .com/Rostoned. Serena fa niente. Ma se volete lo do anch'io il mio MySpace, vedete. Se vuoi, no, tocca a te decidere. Abbiamo un dibattito. Abbiamo un dibattito, MySpace or MySpace not? Or no? No, se volete salutare i ragazzi, insomma, approfittatene. Vai. Allora Serena, lo do? Vedi tu, Serena. Il mio MySpace. Poi facciamo la conta a chi riceve più messaggi. Dai, allora. Dai. www.myspace.com/SerenaRock. Così, banalmente. Ok, allora io vi ringrazio della compagnia. Grazie questa te, notte. Mozzo. Anzi, mi piacerebbe magari prima della chiusura, riportarvi in onda con altre perle, perché quello che conta è soprattutto la vibrazione sonora, e voi sicuramente ne avete regalata di ottima. Quindi grazie ancora, ragazzi. Un bacio, questo era un bacio in diretta. E la buonanotte da parte di Mox. Noi ci risentiamo circolarmente lunedì sera. State incollati alla radio, perché adesso c'è il Faulisi, ma a mezzanotte scatta la 6 ore notturna Hard and Heavy Nightmare insieme a Marco Caravelli e a Max De Rio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonanotte. Rock FM ha presentato Easy Rider, un viaggio musicale pensato e condotto da Mox Cristadoro.